conoscenti, compagni in sventura, fate i bravi, non c'è da aver paura. Correte per la strada, svegliate tutti quanti, anche quelli che vivono sui monti. Il rock non servono domande, non servono però, fate in fretta, più in fretta che si può. La meta non esiste, prendetevi un bagaglio e partite tutti quanti allo sbaraglio. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Lasciatevi alle spalle qualsiasi parola.